attenzione amici, ascoltate. Buon pomeriggio, qui è Polignano a Mare, dove nacque Domenichino, 33 km a sud-est di Bari, Capale. Purtroppo la propagazione non è buona, non ti ascolto bene, K. Ah, state in mobile, state in zona allora, K. Ah, va bene, qui stazione fissa in Polignano, Riccardo da Polignano, K. Ma sei un camionista, te, K? Beh, non mi sono quel canale 14, l'ho sentito da questa... Pensavo che fosse il nord... Arrivi anche, poi sei in movimento e pensavo al nord Italia. Ok, ancora per te, K. Bene, ok, allora buon lavoro, buona giornata. Se passate la Polignano potete sentire sul canale 14, ok, K. Pomeriggio, saluti. Fischiare, ma non capivo chi fosse. 9:30 all'anima con lo scalo, sì. Lo so, beh, adesso l'apparecchio funziona bene, a posto. Sì, anche la modulazione è molto buona, molto buona. Lo so, me ne sono accorto, infatti. E tu come sei sveglio a quest'ora? Sano. Come Antonella? E tu come sei sveglio a quest'ora? Mi so dove sei addormentato. No, in realtà io di pomeriggio, anche se dovessi riposare, non è che dormo. Riposo, per esempio mi sono mangiato un piatto e mezzo di pasta, bella condita. Tant'è che ero così sazio che non ho mangiato nemmeno il secondo e così mi stavo aspettando a stendere i panni e magari un caffè così dopo mangiato. Se vuoi il caffè te lo invento io, se vuol dire. Io uscire da casa no, oggi no, ieri ho fatto di tutto e di più, tutto il giorno fuori. Oggi tutto il contrario, da oggi casalingo, me ne voglio stare bello al fresco qua. Allora, come vuoi tu? Io già sono qua, ma che problema per quello? Se vuoi uscire, non c'è problema, già sono qua. Le chiavi, ti prendi un caffè e prendi una lancia, siamo a posto. Beh, Marco, sai stasera? sono, sono qua, stavo notando e carellando che persino gli spagnoli stanno entrando di più in FM rispetto a una volta. Prima erano più per l'AM e per la banda laterale anche loro. Ah, e vabbè, quello si sa, già lo sai. Ogni tanto bisogna cambiare o banda laterale oppure AM/FM. Va bene lo stesso, non cambia niente. Basta fare gli ex, il discorso è quello lì. Sì. C'è l'altro giorno sul canale 2 PMR, ho sentito un segnale strano, sentivo questo che fischiava, faceva come delle prove, no? Poi staccava e poi ci sentivo un bip, cioè dopo che lui aveva staccato la portante rimaneva così mezzo secondo, un secondo e poi un bip finale, come se fosse un parrot. Ti risulta? Canale 2 PMR. Probabile, niente di strano. Io di solito parlo con sul canale 8, quindi che ci sono lì alla, come si dice, gli os della saggezza. Ogni tanto vado lì, gli faccio visita e ci parlo perché me ne parlo. Yes. Addirittura se ne sentiva uno in 27 di ripetitore Parrot, sul 12 era comparso un paio di volte, tu dicevi una frase e te la sentivi ripetuta, capito? Però penso fosse roba di propagazione e non un locale, il segnale era basso anche. Sì, su 5, su 12, sì, c'è, cioè, è roba ucraina, quindi figurati. Lo so anch'io, l'ho usato anch'io, ho fatto la registrazione. Parlavo tranquillamente da solo come e vendevo camicie, banane, carciofi, capito? A un certo punto. Lo so anch'io, c'è comunque. Cucù, c'è nessuno? Adesso non rispondo. Di solito chiamo sempre tu sei Antonello. Ah, lì hai chiamato, ho capito. Canale 8 in pratica, vai il canale 8, PMR, e lì c'è di saggezza, c'è. Li senti parlare, ci sono delle ragazze, dei maschietti, e parlano, no, non ti dicono niente, la verità. Puoi parlare tranquillamente anche con loro, non ti rompono i coglioni, eccetera, eccetera. Sono le persone tranquille, non sono di quegli stronzi, capito? Qui non vuoi parlare, perché la frequenza è nostra, no? Non ti dicono niente, anzi ti dicono, ma a me c'è compagnia. Sì, si vede che non è un lavoro pressante. Ci hanno tempo da perdere, se hanno tempo di parlare alla radio, dai, non è una cosa sotto pressione come i tempi del Covid. I tempi del Covid eravamo un macello. E lì avevano necessità di avere il canale libero, perché quella era una cosa più importante. Vabbè, quello già lo capisco. Beh, appunto per quello. C'è nessuno? Adesso mi dicono, se fai tu quantomeno se chiami. Adesso non rispondo. Evidentemente sono all'interno. Capito? All'interno cazzo c'è il muro in cemento armato, c'è. Con le porte di ferro, quelle. Un cazzo di altre con le porte. Ci vuole la tessera. Tipo il codice fiscale. Sentite? Sì, io. Il giorno l'avevo sentito una volta, la verità è che, ma con cui sto parlando? Mi ha fatto, dice, stai parlando, dice, con saggezza, mi ha detto. Con saggezza, mi ha detto. Ancora detto, vivo, è tutto bindato. E mi ha detto, cioè, come fai a conoscerlo? Ho detto, c'era mio fratello, ho detto, lì, per 5 anni, vuoi che lo conosca? Conosco tutti lì. Ehi, e ricordo anche che davano nomi e cognomi di pazienti, questo si è, questo c'è questo, questo c'è proprio addosso, cioè privacy dei dati proprio non esiste, sapendo che, ma magari non lo sanno, che è una frequenza molto usata da, da chiunque, sembrano dei giocattoli quelle radio, cioè anche i bambini le usano. Vabbè. Oh, quelle durante il Covid era un altro soccorso, che è una cosa diversa, non confondere. Quella del Covid durante il pronto soccorso, che usava in pratica il primario, giù a pronto soccorso usavano il portatile, poi usavano su in medicina e anche gli altri piani. Quindi in pratica sapevi il nome, il cognome, tutto sapevi, hai capito? Invece dopo il Covid hanno eliminato tutto in pratica. Hai capito? Ma infatti non lo stanno più usando per il momento. Dopodiché lo usavano, se ti ricordi bene, il centro vaccinale del Monte, il centro vaccinale di Rizzetto. Non basta, non c'era nessun altro. Dopodiché ho visto che li hanno eliminati i portatili nel momento. Adesso invece c'è solamente lì a Sagesta, dopodiché c'è come si chiama, l'installazione per i ripetitori telefonici, qui c'è la Mesina, poi c'è la E.ON, altri 3 o 4, basta, non di più, quindi sono 8 canali tutti pieni. Bien, bien. Adesso Antonio ti lascio che vado a stendere la roba là, se no non asciuga più. Ci sentiamo quando capita, ok? Va bene, ok, va. Alle prossime, stammi bene, ciao, ci sentiamo. Thank you. Deve essere isolato.